9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 29 agosto. Oggi, domani, Radio 24 si trasferisce per un pezzo della sua programmazione alla centrale di Fies, che sta in Trentino, Drò. E di qua perché? Perché c'è una più giorni di incontro annuale organizzata da Enrico Letta tra politici, economisti, imprenditori, uno dei pochi centri in cui ogni anno si può fare dibattito aperto con punti di vista diversi da politica e economia. Quindi la versione di Oscar è in onda di qui, come sarà in onda di qui la Zanzara con Giuseppe Cruciani più tardi oggi e domani. Oggi ci occupiamo, con alcuni ospiti che animeranno il dibattito qui la mattina, di fare un punto sulle imprese italiane, l'osservatorio delle imprese nel caos del nostro paese, alle prese con una manovra di cui, come leggete sui giornali, ogni giorno c'è una tassa nuova, tanto per confermare come la pensano coloro che le volevano abbattere. Ma oggi parliamo di imprese con i nostri ospiti, e a tra poco, intanto prenotatevi al solito numero che conoscete, 800 24 00 24, linea al giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon 29 di agosto. Oggi, domani e per un pezzo di mercoledì la programmazione di Radio 24 vi regala, per così dire, delle trasmissioni che invece che dagli studi di Milano e di Roma vengono irradiati da una centrale elettrica, pensate, la centrale elettrica di Fies, che sta in provincia di Trento, a Drò. E infatti il motivo per cui siamo qui, sono io oggi domani mattina, come la Zanzara con Giuseppe Cruciani oggi pomeriggio, è perché questo è diventato uno dei punti del dibattito pubblico fisso annuale nel nostro paese, perché Enrico Letta, lo sapete, vice segretario del PD, discepolo di Beniamino Andreatta, purtroppo in Italia bisogna continuare a dire giovane, ma in realtà stiamo parlando di una generazione che in qualunque altro paese avanzato sarebbero primi ministri o vice primi ministri, ma da noi si resta giovani a vita in questo paese di gerontocrati. Ha questa abitudine che gli deriva dall'AREL, quindi da un centro studi di economia che ha fatto la storia insieme a Nomisma per l'osservazione di come cambiava le caratteristiche del nostro paese, ogni anno di chiamare qua politici, economisti, imprenditori, finanzieri, uomini di cultura, di televisione, per fare un punto aperto, partendo da punti di vista diversi, e quindi non è una conventicola, per così dire, di corrente di partito, ma è l'occasione per parlare apertamente e concentrarsi su analisi dei punti di vista diverse su dove sta andando questo paese. Per questo io ci vengo da anni, per questo abbiamo deciso di approfittare del convergere qua alla centrale di imprenditori, politici, eccetera, per chiedere insieme a loro di riflettere su alcuni punti che sono al centro del dibattito di questi giorni. Quindi questa è la particolarità, non la prendete come un endorsement politico, ma come un apprezzamento che sempre Radio 24 fa di tutti i luoghi, non molti purtroppo, in cui il dibattito pubblico italiano tenta di fondarsi su dati di fatto, partendo poi dal fatto che ciascuno ha i propri strumenti interpretativi. E la puntata di questa mattina, in questa giornata dedicata per la manovra, in cui io penso che vincerò la scommessa, diventeremo uno dei pochi paesi avanzati che insieme alza l'aliquota marginale delle imposte sul reddito, insieme alza un pezzo di aliquota standard dell'IVA e insieme mette pure una mini patrimoniale, questo da parte di coloro che da 17 anni vi dicono che naturalmente le tasse le abbassano. Vedremo se non finisce così, ma oggi invece ci occupiamo di una cosa fondamentale che riguarda l'economia reale del nostro paese, perché uno dei dibattiti questa mattina che ci sarà in plenaria qua alla centrale riguarda questa novità, e la novità è dovuta al fatto che Vedrò ha deciso di darsi un osservatorio permanente sulle imprese italiane per fotografare e analizzare di anno in anno, in occasione di questo incontro che si tiene tradizionalmente alla fine di agosto, una fotografia di quali sono i settori in cui la crescita italiana si sta concentrando con qualche promettente dato, quelli invece che stanno rivelando nell'andamento generale che sappiamo essere quello di un paese colpito duramente per via della crisi del commercio mondiale. Noi siamo comunque la seconda potenza manifatturiera esportatrice nell'area europea, siamo decresciuti dal quinto al settimo posto, ma rimaniamo settima potenza manifatturiera mondiale, e proprio di questo ci occuperemo oggi e di questo parliamo con i nostri ospiti che animeranno di qui a poco, dopo la nostra trasmissione e dibattito in plenaria. Quindi ve li presento, innanzitutto è con noi Marco Zanotelli, che come economista insegna econometria alla Statale di Milano e a Stanford negli Stati Uniti, è diciamo un po' l'animatore e il coordinatore del gruppo di giovani economisti che hanno messo insieme tutti questi importanti, interessantissimi dati sulla base delle quali tenteremo un'analisi di quello che sta succedendo nel caos, diciamo così, del nostro paese, con un paese che però ha una vocazione manifatturiera fortissima, che resta nel suo DNA come una specie di vocazione missionaria, malgrado tutte le difficoltà della politica, del fisco, di un'amministrazione che non funziona. E quindi io intanto, dopo averlo presentato, lo ringrazio e lo prego di salutare. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, e poi abbiamo aggiunto tre figure di impresa italiana che per la loro esperienza, per la loro formazione, per quello che continuano a fare in questi anni, sono tre punti di vista diversi ma importanti di quello che capita su settori diversi, con esperienze diverse, ma è tutta gente che pedala come disperati, diciamo la verità, e quindi li abbiamo scelti apposta perché l'idea che vogliamo trasmettere non è quella di un ottimismo infondato, ma è quella di un paese che deve sapere leggere nelle cose che sa fare, nelle tendenze che sa fare. Forse i politici sono poco esperti nel capire chi sa pedalare meglio e come andrebbe aiutato. Però abbiamo con noi innanzitutto l'amministratore delegato di Alenia Aeronautico e Alenia Aermacchi, Giuseppe Giordo. Buongiorno. Buongiorno. Quindi un grande gruppo, tecnologia avanzata, dove il sistema del procurement è pesante, perché voi capite che partecipare a gare in cui si fa tecnologia aeronautica, civile, ma anche militare, significa spesso doversi confrontare con sistemi paese, non solo perché le gare sono pubbliche, sono i governi che mettono le specifiche, ma perché insomma i concorrenti, siano essi francesi, britannici o americani, insomma è gente che di solito ha le spalle molto coperte, c'ha un sistema dietro, e vedremo con lui se il sistema funziona anche nel nostro paese oppure... forse un po' meno bene che ad altri. Poi abbiamo con noi Gianluigi Cimmino, che è l'amministratore delegato di Carpisa e Yamamé, anche qui un'immersione negli Stati Uniti prima, e poi stiamo parlando di un manager che dietro catene come Yamamé, Original Marines, Carpisa, insomma stiamo parlando di marchi che vi sono molto noti, anche se non seguite proprio nel dettaglio questi settori, quindi è evidente che c'è un drive particolare, avendo saputo interpretare il lancio e il successo di queste cose. E buongiorno e grazie anche a Gianluigi Luigi Cimmino. Buongiorno. E poi Massimiliano Magrini che viene da gruppi editoriali. I gruppi editoriali negli anni di crisi non se la passano molto bene, è uno dei settori di quelli che se la passano peggio, e questo naturalmente poiché siamo il gruppo Radio 24, noi speriamo che il nostro gruppo editoriale faccia eccezione, ma la tendenza generale è quella. E dopo essersi immerso appunto nel complicato andamento delle aziende media del nostro paese, mettendoci insieme l'esperienza fatta in Google, quindi uno dei più grandi, delle più grandi imprese da questo punto di vista, è diventato, si è messo nel venture capital, ha fondato Annapurna Ventures, che è un incubatore per startup tecnologiche. Questo è uno dei punti delicati del nostro paese, imprese sottopatrimonializzate, siamo il sistema in cui tutto è più bancario che in tutti i paesi avanzati, e il problema naturalmente del venture capital è quello di sapere individuare chi ha le migliori idee, non sempre con i capitali giusti, per dare loro, diciamo così, il combustibile per decollare. Quindi grazie anche a Massimiliano Magrini. Buongiorno. Allora, Zanotelli, in qualche minuto, alcuni dei dati più interessanti del rapporto che illustrerete tra poco. Come stiamo andando? Quali sono gli aspetti di ombra? E se c'è anche qualche luce? Sì, diciamo che abbiamo voluto rilanciare fortemente il tema del manifatturiero, industria e manifatturiero. Sentiamo forte questa necessità proprio perché, diciamo, alcuni dati che comunque ci indicano, diciamo, il percorso, ci fanno ben sperare. Devo dire una sola parola riguardo l'osservatorio, in realtà è un osservatorio internazionale coordinato da me, ma in realtà ci sono poi anche l'Università di Stanford e l'Università di Londra, quindi diciamo docenti universitari stranieri studiano i dati italiani insieme a noi. Questa è una cosa, diciamo, un po' nuova. Ma prima domanda, perché l'impressione, vedendo i papers pubblicati sulle piattaforme in cui si pubblicano, insomma, i papers di economia eccetera, perché le università italiane dedicano apparentemente così poche risorse allo studio del manifatturiero italiano? Ma direi sì, questo è veramente un punto vero. In realtà, diciamo, il manifatturiero in Italia oggi è studiato solo da Confindustria in parte, da Edison e da altri grandi gruppi, da grandi gruppi bancari, però non c'è l'università. Noi intendevamo proprio coprire questo problema, diciamo, quindi inserirci su questo. Questa è una grande verità, da molto tempo non si studia sul manifatturiero e questo è un grandissimo problema. Allora abbiamo voluto rilanciare questo tema, che anche perché, come diceva prima Oscar Giannino, sostanzialmente questo è ripartire dal manifatturiero, vuol dire in realtà ripartire dal cuore, dalla sostanza del sistema produttivo italiano. Attenzione però, senza quella euforia o comunque quel tentativo, diciamo, di revival degli anni Ottanta, questo a noi non ci interessa. Quindi ci interessa invece riparlare del manifatturiero, di quello che abbiamo in campo, di quello che vediamo, e su questo mettere tanta innovazione. Questa potrebbe essere una, diciamo, una evoluzione, però deve essere fatta adesso. non può essere fatta fra un anno. Quindi queste sono le politiche industriali che devono essere decise dal governo, dalle parti sociali, eccetera, però ora. Questo è il momento assolutamente di svolta. C'è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Anche perché quello che molti, presi dalla cronaca della crisi nei paesi avanzati, non sono tenuti a sapere e difficilmente li si convince, è che in realtà noi abbiamo di fronte a noi un mondo che esplode così tanto come mercati nuovi, centinaia di milioni di nuovi consumatori per prodotti che tendenzialmente sono nel nostro DNA, sono le nostre specifiche produttive, che il mercato non fa sconti sul tempo. Questo è il problema, perché se non ci arriviamo noi sui mercati emergenti a dargli tutto quello su cui siamo bravi nell'export, ci arriva qualcun altro che è più bravo di noi. Assolutamente sì, anche perché in realtà il mercato saturo non esiste, basta poi metterci innovazione e innalzare il mercato. Questa l'abbiamo imparato dai mercati stranieri, quindi in realtà noi abbiamo una filiera estremamente forte, ricca, ricca di competenze di centinaia di anni. Si tratta di ovviamente crederci in primo luogo e poi metterci quella giusta innovazione per riuscire a fare prodotti di grande qualità che possano stare sul mercato. Da questo punto di vista noi sicuramente, ecco, abbiamo analizzato con la ricerca che presentiamo quest'anno sul manifatturiero tutti i 23 settori del manifatturiero dal 2007 al 2010. Abbiamo cercato di capire che cosa succede dentro le aziende, quante nascono, quante muoiono, diciamo come evolve il mercato dinamico delle imprese in Italia. Do qualche dato. Siccome l'impressione naturalmente è stiamo declinando, tutto va male, se sommiamo tra tutti coloro che hanno i diversi trattamenti di integrazione del reddito, tra espulsi e scoraggiati, arriviamo quasi a 2 milioni di lavoratori. Sì, insomma, certo. Allora l'impressione è un po' questa. Invece diciamo che non è così. Diciamo che non è così perché in realtà noi stessi, anche noi accademici, diciamo, non avendo analizzato a fondo il manifatturiero, non abbiamo capito che in realtà da circa 10 anni si sta lavorando dentro le imprese per fare innovazione, quindi non un anno, da molto tempo. I settori rimangono quelli, sì, forse volevamo settori magari diciamo modaioli, no? Più diciamo nuovi, eccetera, ma i settori sono questi, quindi in realtà bisogna fare innovazione dentro questi, ben vengano anche gli altri settori, chiaramente. E questo non l'abbiamo capito, cioè sostanzialmente pensavamo che fosse un mondo vecchio, una manifattura superata la nostra, e questo è un punto diciamo interessante sul quale da valutare. Veniamo ai dati, diciamo, noi abbiamo analizzato circa 300.000 imprese, il sistema industriale è a nudo perché diciamo, c'è una compenetrazione tra globalizzazione e crisi economica, questi due meccanismi, diciamo, questi due grandi eventi hanno messo insieme, hanno fatto sì che il nostro sistema industriale oggi ci appaia per quello che è, quindi non possiamo più dire colpa della globalizzazione, colpa della crisi, eccetera, è questo. E diciamo che allora in tutto il manifatturiero dal 2007 abbiamo avuto ovviamente un calo del 5% delle imprese e il 2,5% delle imprese solo nel 2010, quindi diciamo sul globale. Questo è un calo numerico. Esattamente. Poi però diciamo che si concentrano le nostre quattro grandi attività, quindi lavorazione del metallo, industrie alimentari, macchine e mobili, diciamo sono queste le nostre quattro, quindi al di là delle 4A eccetera, diciamo, esistono quattro settori sui quali dovremmo investire. Ci sono ovviamente contrazioni decise come quella del tessile, che però poi vedremo in termini da 2007-2010, sì, ma il 2010 riparte anche il tessile, quindi con le nuove imprese ed è lì che dovremmo seguirle. Quindi contrazioni decise, tessile, mobili e legno. Contrazioni più contenute nella chimica, nelle apparecchiature medicali, nelle macchine, diciamo, e apparecchi meccanici. Mentre non hanno risentito della crisi in termini numerici di imprese, sia il settore alimentare, quindi diciamo le industrie alimentari, sia il trattamento di rifiuti e di risanamento. Piccolo settore, ovviamente, che copre solo lo 0,6% della produzione globale, però è aumentato dell'1,4% nel 2010 e abbiamo un aumento del 6,7% dal 2007. Quindi c'è una compenetrazione tra vecchi, diciamo, modelli, vecchie tipologie e nuove. Questa è una cosa importante. Andiamo, diciamo, al congiunturale, quello che sta succedendo adesso. Beh, possiamo vedere che nel manifatturiero in realtà nascono, ecco, questo è un dato che possiamo anche dire, circa 25.000 imprese all'anno e nel 2010 ne sono nate il 5,5 in più. Quindi accanto, diciamo, quindi c'è una rivoluzione dentro il manifatturiero. È vero che muoiono imprese, ma è vero che ne nascono. E quelle che nascono di che tipo sono? Sono industrie alimentari per il 22,8%, industrie del metallo 19,1%, vestiario, quindi abbigliamento 11,6%, 6,8% macchine, fabbricazione di macchine. Quindi sono sostanzialmente i settori trainanti dell'economia nostra. non è il made dell'Intel, è qualcosa di diverso, però in realtà queste tendenze dobbiamo comprenderle. Quindi mentre l'accento era stato posto sul fatto che l'automazione meccanica, le macchine industriali sembrava che diventassero il nuovo driver di crescita, è un pochino smentito dal fatto che invece in settori come l'alimentare e l'abbigliamento nascono migliaia di nuove imprese solo nel 2010. Assolutamente sì. Quindi diciamo questi sono segnali forti che dobbiamo comprendere e sui quali dobbiamo fare una politica industriale seria. Oltre a questo aumentano anche ad esempio altre imprese, quindi diciamo il dato delle nuove start-up, delle nascite delle nuove imprese è importantissimo. Cuoio e calzature 20,2%, quante volte abbiamo detto è un settore saturo, un settore che non ha crescita? Non è vero assolutamente. Fabbricazione di macchine elettriche, ecco, vedete come accanto a settori tradizionali si muovono invece settori dinamici come questo della fabbricazione di macchine elettriche che sono innovative. L'industria tessile riformata con ovviamente innovazioni che sono state messe, vestiario e industria dell'auto. Questi diciamo sono segnali che il paese dovrebbe, su quale dovrebbe perlomeno interrogarsi. Noi lo poniamo. E se la mettiamo dal punto di vista dell'occupazione, in realtà questi numeri che apparentemente testimoniano grandissima vitalità, però sul totale saldo occupati rispetto ai due anni precedenti disastrosi, come stiamo messi? Ecco, diciamo che non c'è simmetria tra la crescita delle aziende e crescita degli occupati. Su questo scontiamo un problema in realtà importantissimo. Noi 94,9% delle imprese italiane hanno da 1 a 9 dipendenti, quindi sono molto piccole. Oggi le piccole imprese sono quelle che hanno sofferto di più, ovviamente, sono quelle che possono fare meno innovazione, possono fare meno ricerca e quindi c'è la necessità assolutamente di andare oltre i famosi 9 dipendenti. Oh, e ricordiamo anche che al di là di chi ripete che poi in Italia sono più di 6 milioni di imprese, sì, però quelle che hanno almeno un dipendente, su quei 6 milioni sono 1,5 milioni. Quindi. Assolutamente, 1,5 milioni, certamente, esatto. Quindi diciamo anche l'aspetto dimensionale fa la sua parte, d'altronde questa è stata una scelta che fu fatta all'Assemblea Costituente, quella di scegliere diciamo un'industria leggera invece che un'industria pesante, quindi oggi non ne paghiamo le conseguenze, perché è stata una scelta probabilmente anche mirata per l'epoca, non avevamo le caratteristiche noi di fare grandi fonderie eccetera, però dobbiamo recuperare alcuni temi. Un tema che mi preme recuperare, e tutti i segnali sono positivi su questo, è la chimica. La chimica è in ripartita, su questo dobbiamo stare molto attenti, perché normalmente la chimica anticipa sempre tutti gli altri, tutti gli eventi eccetera. Adesso vedremo, fra pochi giorni avremo i dati del 2011, quelli saranno molto importanti per vedere se effettivamente la tendenza è confermata, quella del 2010. Esattamente. Quindi come primissima sintesi, vedete che qui siamo alieni da ogni ottimismo, non ci paga nessuno per dire che dovete credere a un'Italia in cui le cose vanno bene, no, però contemporaneamente bisogna avere gli occhiali giusti per vedere nel cuore profondo dell'impresa italiana, stiamo parlando 9 regioni purtroppo, perché è lì che si concentra l'85% di quel 1,5 milioni di imprese che c'ha i dipendenti, ma in quelle 9 regioni il loro tessuto produttivo ci sono comunque, malgrado tutte le difficoltà, la sottocapitalizzazione, un fisco e un'amministrazione che non dà una mano, una politica industriale che manca totalmente perché i meccanismi selettivi di incentivo non ci sono, l'abbiamo detto 1000 volte, e però malgrado tutto questo ci sono dei segnali che dovrebbero essere delle piste, dei fumi che a quel punto la politica dovrebbe un secondo seguire, interpretare, capirli innanzitutto e poi tentare di vedere come si fa a dare una mano a chi mostra, malgrado tutto, questa strepitosa vitalità. Allora, iniziamo a vedere le fotografie con le esperienze, ciascuno dal suo punto di vista, dalla sua formazione, del gruppo in cui sta, e partiamo appunto da Elena Aeronautica, Elena Ermacchi. Stiamo parlando quindi di un'azienda aeronautica di grande storia, che si è molto evoluta, molto diversificata a livello internazionale, presente su mercati difficilissimi, sia nel procurement militare che civile, stiamo parlando dagli Stati Uniti alla Russia con Sukhoi, in un mercato che è complicato, perché naturalmente ci si confronta con concorrenti che sono fortissimi dal punto di vista della capitalizzazione, della finanza, ma sono fortissimi anche perché esprimono dietro sistemi paesi, cioè integrazioni verticali tra governi, chi fa le gare, chi le aggiudica, e contemporaneamente perché i grandi competitor, al di là della presenza più o meno pubblica, se siano tutti privati come capita negli Stati Uniti, hanno una storia di intreccio molto forte con i sistemi paesi a cui appartengono. Allora, la domanda a Giordo, amministratore delegato di Aeronautica e Ermacchi, in questi anni, in questi 4 anni di crisi, e alla luce di quello che ci dicono le tendenze 2010, un pochino più ottimistiche che stiamo vedendo, nella sua esperienza, il sistema paese Italia rispetto all'azienda che guida e alle prese con una competizione così complicata, il C-27 negli Stati Uniti, i velivoli invece civili in Russia, il sistema paese rispetto ai suoi concorrenti, nella sua azienda, quanto pesa? Ma innanzitutto io credo che durante gli ultimi anni dei passi in avanti siano stati fatti. Se io considero l'esperienza di 10 anni fa, il sistema Paese Italia effettivamente non esisteva, e per imprese come la nostra che dovevano competere con altri sistemi, quindi noi non competiamo con altre imprese, ma competiamo con altri sistemi, era estremamente difficile. Potevamo solo contare sulla competitività dei nostri prodotti, sulla competitività della nostra azienda. Credo che sia stato fatto parecchio, ma credo che debba essere ancora fatto tanto. È chiaro che se noi confrontiamo il sistema Italia con un sistema Francia o con un sistema Inghilterra, piuttosto che un sistema Stati Uniti d'America, partiamo sempre in una posizione di estremo svantaggio. Svantaggio che è dato probabilmente dalla mancanza di una chiara politica industriale, dalla mancanza di anche degli strumenti governativi e industriali in modo tale che possano essere sfruttate al meglio le sinergie tra Stato e impresa. Però direi che durante gli ultimi anni abbiamo raggiunto dei grandi risultati, e questi risultati non posso non sottolineare il fatto che sono stati anche raggiunti attraverso un aiuto governativo che sicuramente è stato molto migliore rispetto al passato. Tanto c'è da fare, tanto a livello di strumenti legislativi, tanto a livello di strumenti di supporto per l'impresa, tanto a livello di strumenti anche diplomatici a supporto delle nostre iniziative. Posso fare una domanda spot? Alcuni pensano a casa che gli altri paesi siano anche più bravi, per così dire, nella tutela un po' autarchica, insomma, della propria integrazione dei propri prodotti. Faccio un esempio. Magari qualcuno pensa, se gli americani ci hanno ripensato, come ci hanno ripensato sulla gara per l'elicottero che dovevamo fornirgli come italiani, ce l'avevamo aggiudicato la gara per il Marines One, l'elicottero degli Stati Uniti che porta il Presidente della Repubblica Obama, per capirci, ecco, e però loro ci hanno ripensato. Qualcuno pensa, ma perché noi non siamo bravi come gli altri, che di fronte a una cosa come questa facciamo una bella vendetta, una retaliation, e facciamo capire agli americani coi muscoli che se ci ripensano noi ripensiamo su cose loro? È sbagliato pensare così, oppure semplicemente non ce lo si può permettere perché non si ha le spalle abbastanza larghe? Ma io non credo sia un problema di avere le spalle abbastanza larghe, io credo sia un problema di mentalità, io credo sia un problema di pragmatismo americano rispetto a una sorta di servilismo in qualche modo che esiste in Europa nei confronti dell'America, soprattutto nel campo della difesa. Gli americani hanno dimostrato di essere molto pragmatici, hanno preso in considerazione un determinato programma, hanno considerato quel programma da un punto di vista tecnico e programmatico, non credo che ci siano delle considerazioni politiche dietro. Questo dovrebbe avvenire anche in Europa, per alcuni programmi che gli americani portano avanti in Europa. Probabilmente noi in Europa abbiamo più paura di effetti politici rispetto a quello che gli americani hanno nei confronti degli europei. È chiaro che poi nei prossimi anni negli Stati Uniti d'America vedremo sempre più una politica di protezionismo e quindi di protezione delle industrie americane rispetto ai concorrenti europei. Siamo pronti, quindi dobbiamo essere, come dicevamo prima, dobbiamo essere flessibili, dobbiamo avere una struttura industriale flessibile tale per cui dobbiamo diventare ancora più competitivi e dobbiamo cercare di essere competitivi da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista dei programmi, in qualche modo anche dimenticandoci di un supporto governativo che può o può non esserci. Quindi però, non possiamo. Però ecco, l'essenza, mi pare di capire, la risposta di Giordo, e mi rivolgo anche a Zanotelli, che una delle chiavi da chiedere alla politica per tornare ad avere una visione di selezione, di incentivo, di sostegno alla politica industriale, non è tanto quello di riprendere in mano l'impresa nella proprietà pubblica, ma di avere un'idea in cui però la chiusura, l'autarchia e il protezionismo non sono la soluzione del mondo di oggi, no Zanotelli? Certamente. Anzi, diciamo che probabilmente c'è proprio bisogno in questo periodo di individuare anche una nuova forma, diciamo, di Stato, che in realtà è quasi uno Stato investitore che non entra assolutamente nelle imprese, ma investe, diciamo, nei fondamentali della società italiana, quindi la cultura, la scuola, e, diciamo, appunto per creare quel know-how serio che possa servire, diciamo, al paese. Quindi oggi abbiamo bisogno che più di ogni altro momento, diciamo, forse il primo passo di questa politica industriale sarebbe quello di fare un grande bando per il ritorno dei cervelli italiani, spianandogli però dal punto di vista fiscale, retributivo, eccetera. Guardate che chi ha casa, quando vi dicono bisogna guadagnare tutti meno, bisogna tutti pagare più tasse, così non si è competitivi per far tornare i migliori cervelli. Assolutamente. Ecco, sì. Questo bisogna dirlo, e non siamo sospettabili di essere per il grande capitale in questa puntata. Allora, ci abbiamo la pubblicità, via. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati qui dalla centrale di Fies a Dro, dove in questi giorni va in onda, per così dire, Vedrò, questa kermesse che alla fine di agosto, da qualche anno a questa parte, per iniziativa di Enrico Letta, raccoglie imprenditori, politici, finanzieri, uomini di cultura italiana per fare il punto intorno alle linee interpretative di come cambia questo paese, un paese colpito dalla grandissima crisi che da 4 anni è ben lungi dall'essere risolto sui mercati mondiali e con la caratteristica di avere lo abbiamo sentito, confermato nel suo DNA, la sua capacità di fare manifattura malgrado tutto, di fare esportazione malgrado tutto. Il dato che abbiamo di questo primo 2011 è comunque un più 17% dell'export manifatturiero italiano, record, perché è la stessa percentuale, sia pure a diversità di volumi e valori, del leader del europeo, cioè della Germania. Abbiamo visto luci, ombre e abbiamo iniziato a vedere come insomma gli altri abbiano un'integrazione di sistemi di paese più efficace della nostra, anche se questo non significa il ritorno a vecchie concezioni proprio dello Stato, ma significa innanzitutto capacità di fare formazione del capitale umano, di saperlo attirare invece che indurlo ad andarsene dal nostro paese, così come è nei decenni che abbiamo alle nostre spalle. Vediamo un'altra esperienza, un altro punto di vista, uno dei punti delicati del manifatturiero italiano, con questo 95% di imprese fino a 9 dipendenti sul 1,5 milioni che ne hanno almeno uno italiano, è sicuramente la sottopatrimonializzazione. Da sempre lo sappiamo, lo denunciamo, siamo anche contemporaneamente il paese in cui l'intermediazione finanziaria è praticamente tutta bancaria, è l'unico paese tra quelli avanzati in cui dal risparmio in conto corrente al risparmio gestito, a quello amministrato, dal capitale di rischio al capitale di debito, tutto passa per le banche nel nostro paese. Io sono sempre stato critico di questo perché penso che più concorrenza e intermediari di tipo diverso, non bancario, abbiano possibilità migliore di soddisfare un tessuto di impresa così variegato, ma il punto è che se già chi fa impresa ha di solito poco capitale e se da questo punto di vista gli incentivi pubblici non hanno mai risolto il problema, secondo me non lo hanno risolto neanche in questi anni in cui ci siamo inventati un bel po' di cose, abbiamo potenziato i Confidi, abbiamo fatto il Fondo Investimenti Italia SGR, ma in definitiva per indurre davvero l'impresa a patrimonializzarsi di più la differenza non c'è stata. Uno dei punti più delicati è che rispetto a queste migliaia di imprese che malgrado tutto continuano a nascere, come ci ha detto Zanotelli, la fame di capitale rispetto alle buone idee ha bisogno di chi sa discernere, discriminare una buona idea che merita un capitale quando il capitale non c'è ancora. Allora, per questo chiedo a Magrini, che è diventato fondatore, animatore di un venture incubator di nuova generazione per le start-up tecnologiche, come sia possibile un paese in cui c'è questa vitalità malgrado tutto e in cui poi quando c'è la rendicontazione trimestrale dei fondi di venture capital eccetera apprendiamo che ci sono 7, quasi 8 miliardi di free capital non utilizzato. Com'è possibile in un anno in cui c'è un turnover delle aziende così profondo, continuano a nascere imprese nuove e in cui c'è una sottocapitalizzazione patologica, endemica? Chi è che non risponde bene all'appello? Non sono abbastanza buone le idee delle nuove imprese italiane? Oppure c'è un problema in chi deve fare questa selezione e tentare di dare alle buone idee capitale? Ma questo è esattamente il punto di partenza da cui siamo partiti noi nel fare questa analisi, perché sostanzialmente nell'analizzare il fatto che in Italia ci fosse un tasso di startup tecnologico molto più basso che nel resto d'Europa, ma non confrontandoci con i paesi più avanzati, basta parlare alla Spagna e alla Francia che sono i paesi più culturalmente più a noi vicini, non si giustifica un rapporto di 1 a 5, 1 a 10 rispetto a questi paesi. E il punto era cercare di capire se mancasse il capitale o mancasse la competenza. La verità è che oggi c'è una buona disponibilità di capitali nel momento in cui l'azienda dimostra di essere in grado di sviluppare prodotti e servizi. Cioè, per accelerare o per sviluppare la propria impresa, per internazionalizzare, esiste una buona dotazione di capitale. Non esiste praticamente capitale nella fase early stage, nella fase di seed, perché in quella fase è necessario portare oltre che competenze di tipo finanziario, per lo più competenze di tipo industriale. Cioè il venture capital si basa sull'assioma di essere capace a selezionare e ad accompagnare la nascita delle imprese nel momento in cui sono più deboli, cioè quando sostanzialmente non sono in grado di pagarsi la professionalità di manager professionisti, di consulenti, di attività di marketing. In quella fase bisogna che ci siano delle competenze che gli vengono fornite oltre che il capitale. Se non avviene questo cortocircuito tra competenza e capitale, il numero di nuove imprese non nasce e ci troviamo nella situazione di avere tanto capitale che aspetta di essere investito in aziende molto grosse, ma che le aziende fin là non ci arrivano perché la terra di nessuno non la riescono ad attraversare perché nessuno le accompagna in attraversamento. La mia esperienza però di questi due anni è assolutamente positiva, perché io ritengo che l'imprenditore innovativo italiano di nuova generazione, quindi che ha, diciamo, un'età media compresa tra i 25 e i 35, ha le attitudini sia culturali che di attitudine al rischio sufficienti per poter cominciare a sviluppare impresa. Noi dal nostro punto di vista siamo molto soddisfatti, perché nel primo anno di attività abbiamo fatto più di 7 iniziative, tutte riguardanti impresa innovativa, quindi impresa che ha volontà di internazionalizzazione, che ha volontà di crescita, che tendenzialmente può diventare una outsource ricerca e sviluppo per grosse imprese, che potenzialmente può avere anche la possibilità di andare in borsa. E quindi la risposta che io do a questa è positiva, nel senso che esiste una domanda imprenditoriale relativa a questo settore. Il punto è che però anche nel nostro ecosistema dell'innovazione, si tratta di un ecosistema di cui il venture capital è una parte molto importante, ma che si nutre di integrazione con l'università, si nutre di integrazione col sistema delle grandi imprese e si nutre di, sostanzialmente, di una visione strategica rispetto a quel settore. Il venture capital, o quantomeno l'ecosistema innovativo, ha diversi, diciamo, modelli idealtipici, cioè il modello americano, il modello continentale europeo e il modello israeliano. Secondo me bisognerà che l'Italia in qualche maniera prenda una sua posizione e individui uno di questi tre modelli per cercare di sviluppare al meglio questo tipo di ecosistema. Oh, quando sentite a casa parlare di modello israeliano e magari diffidate, io vi ricordo che praticamente quasi la metà delle imprese tecnologiche sul Nasdaq eccetera è israeliana, perché lì hanno evidentemente sperimentato un approccio di integrazione tra l'università, capitali, la promozione, andare in borsa sulla più grande piazza finanziaria mondiale, che ha un ritorno, perché è il drive di tutta la parte core delle imprese manifatturiere israeliane. Quindi è questo un po' che manca. Le faccio una domanda. Io anni fa ho convinto una banca a intervenire in una fase post startup universitaria, in cui quindi c'è già l'idea di impresa, per dare capitale a idee che avevano già dimostrato di poter stare sul mercato e avevano fame. La mia esperienza è stata molto negativa, cioè io in questi anni do un giudizio tagliando la fetta, insomma, tranne che i due politecnici di Torino e di Milano, Napoli molto indietro, ma comunque anche lì qualcosa si è mosso, e alcuni poli tipo Trieste, Trento, perché qui anche c'è un'eccellenza da questo punto di vista, il più delle università italiane dopo le startup, che sono, per chi è in ascolto, procedure di selezione di idee che nascono dagli incubatori universitari e poi bisogna naturalmente portarle fuori dalle idee, secondo me è molto ancora insoddisfacente. Cioè io credo che l'università italiana sia lontana ancora troppo dall'idea di fare una integrazione vera, perché l'idea è ricerca di base, la ricerca di base non deve essere interessata, se è troppo interessata non è interessante. Vedo che scuote il capo, ma perché è d'accordo? No, perché tristemente sono totalmente d'accordo con quello che dice, e ritengo che però l'università dovrebbe occuparsi in maniera specifica di creare i presupposti culturali per creare degli imprenditori. Magari Zanotelli, che è a cavallo tra l'università italiana e Stanford, non la pensa così però. No, io la penso esattamente così, anzi credo che si debba integrare, ma veramente quantomeno anomalo che un paese come il nostro non lo faccia, il piano nazionale della ricerca col piano industriale. È la cosa che hanno fatto in Israele, la prima cosa. Quindi questo deve avvenire. Poi però devo dire che esistono anche nella realtà, compresa la realtà trentina, visto che ci siamo ospiti qui, una realtà, diciamo, universitaria estremamente interessante dal punto di vista applicativo, quindi non tanto la ricerca di base quanto la ricerca applicativa. E su questo noi dobbiamo assolutamente unire questi due segmenti. Questa cosa ancora non si è fatta, però è necessario anche qui un punto, diciamo, nazionale, quasi un progetto nazionale, che poi ovviamente si diffonde nel territorio, assolutamente, integrare i due piani, piano nazionale della ricerca, piano industriale. Comunque adesso hanno appena nominato il presidente CNR in una nuova tornata di nomine di 12 enti istituti di ricerca tra i maggiori del sistema italiano, il rettore del Politecnico di Torino, Profumo è uno di quelli, secondo me, che è stato più capace sul campo. Bellissimo. Di fare questa roba. Speriamo che nel CNR questa roba sia un segnale, esattamente, per andare in questa direzione. Iniziamo a sentire anche alcuni ascoltatori, cominciamo da Giovanni, che ci chiama dalla provincia di Pisa, se leggo bene. Giovanni, lei che impressione ha? Siamo troppo ottimisti, che impressione ha? Buongiorno a tutti, in primo luogo. A me sembra che di vivere in un altro mondo. Io sono un artigiano da 45 anni, 46. Sono andato in pensione con 800 euro, non ce la faccio a campare, devo lavorare finché campo. Ma non è questo, e vabbè, questa è la mia vita. E il fatto è che parlavate di molti che si sono, di nuove aziende che hanno aperto. Sì. Molti sono piccoli, che non possono più lavorare all'interno delle fabbriche. Io parlo del settore pelletteria, di cui faccio parte. Io lavoro, taglio la pelle per le griffe, Beh, ci pagano 10 euro l'ora fatturati, è giusto così. Ma come si fa a lavorare a questi pezzi? In fabbrica non è più possibile. Allora tanti mandano a casa la gente, gli fanno prendere la partita IVA e così cominciano, e così si aprono le partite IVA e nuove aziende. E questa è la realtà delle cose, la realtà è questa, che qui il capitalismo ci sta ammazzando tutti. Oltre va bene, quindi la sua idea è che... Un attimo solo, prego, Giannino, si figuri. Dottor Giannino, le banche, provate voi ad andare a dire a due figli, hanno aperto una ditta, per prendere 10.000 euro, ho dovuto mettere la fiduzione, se no non gli garanzia. È garanzia. Le banche applicano l'anarchismo, gli interessi sugli interessi, ci stanno strozzando. Ma come si fa a lavorare così? Questa allora, non quella del bla bla bla bla bla. D'accordo, Giovanni, però i numeri sono i numeri, noi tentiamo di fare dei numeri. Allora, lei dice, bisogna vedere quante di queste in alcuni settori, tipo l'abbigliamento, eccetera, sono esternalizzazioni di pura sopravvivenza, finte collaborazioni, che significa espulsione invece da un rapporto di dipendenza interno o perimetro di un'azienda. Domanda a cui poi poniamo la zona. Alex, che ci chiama da Modena, invece, cosa pensa? Anche lei, che siamo troppo ottimisti? Buongiorno, salve, grazie per l'intervento. Ma come ottimismo diciamo che forse sì, ma l'ottimismo è abbastanza, in questo momento serve, è molto utile. Io, guardi, la chiamo da Modena, il comprensorio da Sassuolo, il comprensorio mondiale della ceramica, lo era sì. Prima. E io qui da noi produciamo tutto, abbiamo le automobili, l'alimentare, le automazioni, l'abbigliamento, c'è tutto. Io sono un giovane imprenditore, ho un'azienda di famiglia da 40 anni e ho visto la mia azienda crescere, l'azienda di mio padre crescere, e in questo momento invece si è tutto fermato. Allora, secondo me, io penso sia indispensabile che noi tutti dobbiamo essere più italiani e acquistare più prodotti italiani, e così riusciamo a uscire molto prima anche da questa crisi. Io credo che comprare un prodotto, guardare che sia made in Italy, che sia prodotto in Italia, che sia fatto, perché dietro un prodotto italiano ci lavora un sacco di gente, un sacco di persone. Anche Alex, se io sono d'accordo, ma la mia risposta è che bisogna soprattutto essere capaci a vendere sugli altri mercati, altrimenti torniamo al fatto, comprate Fiat perché è italiana. La risposta è che io non mi sentirei mai di dire a un consumatore, qualunque sia la sua carta d'identità, che non deve comprare la migliore automobile che soddisfa meglio per i suoi requisiti e i suoi bisogni. Questo è il mercato. Per carità, il nostro ascoltatore precedente dice che è il mercato che ci uccide. Non lo so, io credo che sia la più strepitosa occasione in termini di apertura di nuovi mercati ai prodotti italiani, però bisogna essere capaci di venderceli, portarceli, avere il capitale investito per avere in mente come si può ottimizzare tutto, fare innovazione. Per chi è ad alto costo, come siamo noi, il successo c'è. Non è vero che il mercato è una roba solo al più basso costo per riuscire. Semplicemente bisogna sapere salire nelle catene del valore aggiunto. La storia dell'evoluzione economica è una storia in cui i paesi leader delle tecnologie e delle esportazioni per decine e decine di anni sono rimasti leader. Mica perché pagavano meno la gente, la pagavano di più perché facevano cose che potevano incorporare e remunerare più valore. Questo è il punto. Se ne siamo capaci. C'è chi pensa che l'Italia non è più capace. Qui ci sono dei numeri che dicono che l'Italia ne è ancora capace, malgrado tutto. Adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale per un minuto e poi torniamo in studio con Gianluigi Cimino. 9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci in studio per quest'ultima parte qui della versione di Oscar, sempre dalla centrale di Fies, DRO, dove vedrò in questi giorni consente un approfondimento su dove sta andando l'Italia, e siccome va a onore di Enrico Letta, qualunque cosa possiate pensare della sua parte politica e di lui, aver messo insieme questo, che è uno dei pochi osservatori in cui si può parlare liberamente, confrontandosi qualunque sia la propria esperienza, opinione, non solo politica, ed è davvero, secondo me, interessante. Allora, prima di rispondere all'osservatore che ci vengono, alle osservazioni che ci vengono dagli ascoltatori, finiamo il nostro primo giro di pane tra i nostri ospiti. Allora, Cimino, la mia domanda è questa, cioè lei è collegato, l'abbiamo detto all'inizio, Carpisa, Yamamei, Original Marines, insomma stiamo parlando di marchi che sono affermati negli ultimi anni nel nostro paese e anche fuori, danno una dimostrazione che le catene distributive, le modalità di organizzazione delle catene commerciali, abbinate naturalmente a prodotti innovativi, ha un'interpretazione diversa anche dei bisogni dei consumi che apparentemente erano in settori considerati anche lì saturi, fermi, standard. Insieme queste tre cose danno una risposta a uno dei problemi che è poi la bassa crescita del nostro paese. Noi facciamo l'80% della crescita breve dall'export manifatturiero, ma abbiamo un problema di bassa produttività purtroppo, in moltissimi dei settori che soddisfano invece la domanda interna, che è stagnante per basso reddito disponibile, però ha un problema di bassa produttività. Allora, queste esperienze, come quelle che lei ha posto in essere, essendo poi tra l'altro giovane, perché bisogna pure dirlo, l'anno è il 73, mi pare 73, che sì. 73, non stiamo parlando. Supera i 35. Supera i 35, insomma, in Italia, poppante praticamente, secondo il criterio italiano. Allora, come e perché queste esperienze dimostrano che si possono unire queste tre cose che sono un po' il punto debole, insomma, delle catene distributive italiane? Noi siamo nati nel 2002, quindi in un momento sicuramente di grande crisi e di cambiamento dei consumi, dei bisogni, di rivoluzione anche del mondo dei consumi. È stata un'opportunità, quindi creare nuovi mercati di sbocco attraverso innovazione non soltanto nel prodotto ma anche nelle formule distributive, innovazione nella comunicazione e cercare di raggiungere questi nuovi bisogni dei consumatori attraverso delle nuove modalità distributive. Sono stati anni di crescita. Ma voi eravate dotati di capitale all'inizio o il capitale vi è venuto dietro riconoscendo la moneta? Noi eravamo dotati di capitale umano, di capitale che veniva da precedenti esperienze, perché in effetti io vengo da una generazione, sono la seconda generazione di una famiglia che ha sempre operato nel settore del retail con marchi diversi, con esperienze diverse. Abbiamo delle guide in azienda sicuramente di età diversa dalla nostra, ma che illumina il percorso di giovani come me che fanno parte di questo gruppo di lavoro, ed eravamo dotati soprattutto di tanta voglia di lavorare e di una visione, diciamo, del futuro, che era una visione ottimista. Ma dovesse dare un giudizio 2002. Rispetto al punto risollevato dall'ascoltatore che sì. Prima parlava, quando toccavamo a proposito del venture capital, se dovesse dare un quadro riepilogativo con un giudizio, il vostro rapporto con gli intermediari finanziari per la dotazione del capitale alla fine è stato soddisfacente, poco meno che soddisfacente o più che soddisfacente? Ad oggi non abbiamo avuto, diciamo, nessun rapporto con intermediari finanziari, perché sono aziende che si sono assolutamente sviluppate attraverso l'autofinanziamento e attraverso una formula che è stata vincente e quindi che ha generato crescita. Non precludo alcun, diciamo, possibili sviluppi di apertura a venture capital o apertura al mercato per il futuro, anche perché per crescere bisogna raggiungere livelli dimensionali diversi, soprattutto per crescere all'estero, per crescere in Europa e per crescere nel mondo. Ma quindi vero, anche il vero, mercato. È vero o non è vero quello che molti italiani, quando vanno all'estero, magari non sono grandi esperti di consumo, di meccanismi distributivi, però hanno un'impressione che grandi paesi, i nostri concorrenti, siano capaci anche lì di integrazioni verticali. E se uno va in Cina, voglio dire, e vede sì. La presenza di Carrefour e Auchan, e quello che è il traino che queste grandi catene francesi hanno su tutto il Made in France, non trova niente di analogo italiano. Allora, perché? Perché c'è una risposta anche qui frazionata del meglio dell'eccellenza italiana che si auto-organizza poi per i franchising fuori, eccetera, oppure c'è qualcosa da ripensare? Perché in realtà lì si porta un'idea complessiva globale e noi non siamo ancora riusciti. Ma se parliamo del mio settore, in particolare dell'abbigliamento e degli accessori, c'è sicuramente un forte impatto, una forte organizzazione per quello che riguarda il lusso. Per il settore medio negli anni c'è stata una forte concentrazione. Però il lusso che i francesi ci hanno saccheggiato, per essere che ci hanno poi saccheggiato. Loro, non lo dico. Negli ultimi anni nel settore medio c'è stata una fortissima concentrazione nel chiudere le frontiere a quelli che erano i prodotti che venivano dalla Cina e pochissima integrazione tra quello che era anche il mondo produttivo locale e la realtà distributiva, quindi poca attenzione al retail, tant'è vero che poi alla fine grandi colossi e grandi gruppi del Nord Europa e della Spagna che hanno saputo integrare la produzione alla distribuzione sono venuti in Italia e hanno distrutto piccole e medie catene distributive italiane. Quindi per quanto riguarda poi l'Oriente, il fenomeno si sta un po' ripetendo, perché, ripeto, lusso, ma prodotti di medio livello ancora non siamo organizzati per, come logistica, come marketing, come analisi, diciamo, dei consumi locali, e quindi una fortissima focalizzazione sul lusso, pochissima concentrazione sul livello medio. Noi vogliamo portare il prodotto anche di livello medio, disegnato, stilizzato in Italia, ma prodotto un po' in giro per il mondo, anche in mercati nuovi come quello cinese. Io ricordo sempre a tutti che noi abbiamo un sistema manifatturiero che esporta, che in 4 anni è passato da 1450 km di distanza media del manufatto esportato italiano a più di 4500. Queste catene lunghe implicano visioni organizzative, gestionabili, manageriali, ottimizzazione del circolante dal punto di vista finanziario, che sono completamente diverse rispetto al mondo precedente. Quindi abbiamo anche lì molto da imparare. Ancora rapidissimamente due ascoltatori e poi diamo la parola a Zanotelli per le risposte finali. Raffaele, che ci chiama da Chieti, breve, la prego di essere breve ma essere anche bruciato. Buongiorno, se non l'abbiamo convinta ce lo dico. Senti, io avevo un'esperienza a marchio Abruzzo, sia nella ricerca e sviluppo, sia all'università, anche all'interno di Spinoff, quindi sì, sono queste aziende che nascono dal mondo universitario e anche con un paio di aziende locali. Una grossa differenza che vedo è la differenza nella disponibilità di capitale umano, perché l'università, l'azienda, lo spin-off, che magari è diretto da uno o due professori che lavorano all'interno dell'università, può usufruire di studenti, di dottorandi, di ragazzi tutto intorno ai 30 anni, pagati però con soldi pubblici tante volte. E quindi mi chiedo, nella analisi che state facendo, pensate che questo debba continuare ad essere, che bisognerà regolamentarlo, perché a volte fanno una concorrenza sleale a chi invece cerca di mettersi sul mercato per offrire un servizio analogo. Chiarissimo, Raffaele, la ringrazio della domanda. Marco da Vicenza, breve. Buongiorno. Marco. Pronto, buongiorno. Due cose. Io sto facendo una bellissima esperienza con l'Università di Genova, però siamo, diciamo, bloccati perché il Ministero della Ricerca Scientifica non ha ancora definito esattamente i parametri per la partecipazione delle università e quindi esiste di fatto un problema legislativo e burocratico. Secondo aspetto è dei venture capital. Purtroppo l'esperienza che io sto facendo in questo momento è che a volte per piccole start-up che hanno bisogno di capitali intorno al milione di euro si fa fatica a trovare, perché i venture capital o intervengono su importi superiori oppure non intervengono. Ecco, grazie. Due cose velocissime. Grazie Marco, io lo sapevo, tutte le volte che tocchiamo il problema dei rapporti tra università, startup e capitale, ci sono molti di voi quelli che ci chiamano. Allora, Zanutelli, un minuto, perché poi diamo un minuto anche a Magrini. All'ascoltatore che ci chiedeva, ma qui i vostri dati non è che ci cacciano e sono finte nuove imprese? Certo, no, anzi io devo ringraziare l'artigiano Giovanni che ci ha chiamato, perché in effetti rispecchia proprio il momento. Cioè, in realtà Giovanni che cosa sta facendo? Si trova a competere solo sui costi, e quando tu competi solo sui costi ovviamente non sei vincente. In Italia noi non siamo vincenti, questo è il problema vero. Poi Giovanni è anche un artigiano, quindi ci sono altre dinamiche che riguardano la nicchia, eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista sicuramente siamo penalizzati. L'evoluzione sarà quella che abbiamo disegnato adesso. Certo, abbiamo anticipato forse i tempi noi, però insomma quella è l'evoluzione. Rispetto alla seconda domanda, volevo solo dire questo, che riguardo a, diciamo, la compenetrazione tra università, quindi ricerca e produzione eccetera, lo Stato fin quando deve arrivare? Sì. Beh no, siamo in una fase molto arretrata, quindi io non mi porrei proprio il problema oggi di grandi investimenti, anzi magari lo facesse, magari tutti i docenti universitari, quelli, diciamo, facoltà scientifiche, si impegnassero. No, ma anche perché la mia esperienza, ripeto, nella startup, quando si parla di incubatori universitari, altro che la soglia non è il milione di euro, stiamo parlando di decine di migliaia, al massimo 100-150 mila. Comunque, Magrini che dice? Ma sostanzialmente è vero quello che dice l'ascoltatore, cioè nella fase early stage sì, mancano i capitali perché è la fase più rischiosa, quindi tendenzialmente chi ha capitali tende a cercare di investire nella fase later stage. Una breve annotazione sul fatto che comunque le imprese non si fanno con i ricercatori, ma con i ricercatori che vogliono diventare imprenditori, esattamente, perché se no non si fa impresa. Anzi, nella mia esperienza, lo dico all'ascoltatore e a chi magari lavora sull'università, una delle cose più difficili è spiegare a chi ha avuto la buona idea che poi tradurla in un'impresa, cioè con bilanci, saper vendere eccetera eccetera, non è che chi ha avuto la buona idea di solito è capace di farlo. E una delle difficoltà è proprio quella che quando tu gli chiedi un tutor, gli metti un business angel, quello ti guarda come se stessi dicendo mi stai derubando dell'idea. Invece no, perché fare l'imprenditore, per quanto sia animal spirit, immagino molti di voi ne diffidiate, anche ascoltatori di Radio 24, e sbagliate, perché questi animal spirit sono nel DNA italiano. La mia sintesi è che io ringrazio Zanutelli, chi ha lavorato a questo, che immagino e spero diventi un rapporto permanente, sì, da dare all'Italia e portare alla politica e dibattere nelle università con i giovani studenti, che secondo me poco ne sanno di queste cose, è quello di continuare a dare all'Italia non fiducia, perché non siamo qui per conto del governo, ma semplicemente non dimenticate quello che l'Italia dimostra malgrado tutto di sapere fare, e se ci organizziamo per farlo fare meglio, allora c'è un futuro anche per i vostri figli, altrimenti il futuro per i vostri figli, se hanno voglia di fare il capitale umano, è fuori e le possibilità di tornare diventano molto basse. Io che voglio fare figli ancora penso che bisogna dare una mano a chi ci butta la testa sopra. Qui sono tutti giovani, persino l'amministratore delegato dell'aeronautica è più giovane di me, quindi qualche speranza c'è in questo paese malgrado tutto. Quindi io ringrazio Zanutelli, Magrini, Giorgio Cimino. Noi adesso ci trasferiamo praticamente a fare il dibattito dall'altra parte nella plenaria, ma in ascolto, se entro stasera vinco la scommessa e c'è la patrimoniale e l'aumento sia l'imposta sui redditi che l'imposta invece sul valore aggiunto, pensateci bene su chi vi ha promosso il contratto da 17 anni, pensateci bene, forse è il caso che cambiate opinione, perché loro intanto l'opinione non mi pare che la cambino. Propaganda elettorale no, induzione alla riflessione, perché il meccanismo della delusione, degli incentivi e disincentivi, per chiunque studi economia, è un meccanismo di fondo per cui un paese si pianta. Se questo paese si pianta è perché non solo i governi non fanno cose buone, ma spesso riescono sempre a non deluderci nell'inventare cose che deludono ancora di più le aspettative. Buona giornata, appuntamento a domani, Linea Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.